Allora, buonasera, parlo per primo, sono Giacomo Marramao, anche perché in qualche modo devo fare gli onori di casa, essendo direttore di questa fondazione, e intanto esprimo la mia gioia e anche l'onore, sia da parte mia sia da parte della fondazione, di ospitare una presentazione di un libro di Giovanni Gervis, di Johnny Gervis. Sono saggi raccolti in maniera straordinariamente rigorosa da due amici e collaboratori di Johnny, Gilberto Corbellini e Massimo Marraffa. Il titolo, come sapete, Il mito dell'interiorità tra psicologia e filosofia, sono testi, da quello che ho visto, che vanno dagli anni 60 sostanzialmente fino a poco tempo prima della morte. Vi è anche un inedito che mi ha molto colpito, che poi è il capitolo 9, retoriche della interiorità. E insomma, diciamo, quello che vorrei dire all'inizio è quello che ha significato per la cultura italiana l'opera di Giovanni Gervis, non soltanto per la psichiatria, per la psicologia, ma in generale per la cultura italiana della seconda metà del Novecento e anche però dell'inizio del XXI secolo, perché Johnny in realtà negli ultimi lavori si stava proiettando oltre il Novecento e oltre una serie di impasse che abbiamo avuto all'interno del pensiero del Novecento. E se mi è consentito dire qualcosa di, appunto, di personale, io ho conosciuto Johnny molti anni fa, anche se poi sono diventato suo amico con una consuetudine intensa negli ultimi 10 anni, quando eravamo insieme membri del comitato scientifico della Bolla di Boringhieri, che poi, diciamo, è importante che la casa editrice di cui lui è stato appunto membro del comitato scientifico abbia raccolto questi suoi lavori. L'ho conosciuto la prima volta, era un giovane intellettuale con i capelli neri lunghi dietro, era autunno del 1967, stavamo per occupare la facoltà di lettere e filosofia di Firenze e lui venne a parlarci dei temi affrontati nell'estate precedente nel convegno internazionale Dialettiche della Liberazione. E proprio ricordo come fosse ieri, io intervenni anche da studente universitario, intervenni a dibattito che ci fu, e il convegno si era svolto a Londra alla Roundhouse, proprio nell'estate del 67, e io ricordo addirittura che fece un intervento che era un po' filo artussiano, come lo definì Johnny Gervis. Io gli replicai che lui era troppo filo marcusiano e ci fu anche un po' un battibecco tra di noi. Vedo che la fedeltà, perché poi la caratteristica di Johnny è, come dire, era quello di correggersi nel tempo, operare revisioni, ma mantenersi fedele alle stime intellettuali che aveva. E ho notato che in questo saggio, su cui poi ritornerò, Il mito dell'io debole, e lui a un certo punto in qualche modo salva Marcuse, secondo me anche giustamente. Io sono arrivato alla conclusione che Johnny aveva ragione, perché proprio nel riferirsi al congresso Dialettiche della Liberazione, alla Roundhouse di Londra, parla dell'intervento di Gregory Bateson, ma poi anche parla di Marcuse e dice, e in quelle stesse circostanze Herbert Marcuse, rivolgendosi a un gruppo di hippies che lo aveva salutato sventolando fiorellini, forse presumendo che gli fosse un guru del flower power, rispose un po' irritato: flower has no power. È bellissimo questo. Io ho incontrato Marcuse nel 73 a Francoforte e fece una delle urla spaventose contro Daniel Convendi, che cominciò a provocarlo, era seduto esattamente dietro di me, anche un carissimo amico, eccetera, lo provocò, lo contestò e gli disse: lei sta dicendo delle assurdità, lei non capisce nulla di politica, disse Marcuse, e lo ricondusse a un'analisi. Quindi effettivamente il Marcuse che Johnny mette in campo qui è un Marcuse che riconosco nel personaggio che io ho incontrato a Francoforte, sempre, dico essendo stato fino ad allora un anti-marcusiano convinto. Ma vengo un po' ai nodi che sono presenti in questo libro, evitando l'eccesso diciamo di testimonianza. Uno dei primi nodi che viene fuori anche ad opera dei curatori, sia nell'introduzione di Marraffa sia nella postfazione di Gilberto Corbellini, è un tema che è rimasto caro a Johnny sempre, è il fatto che il nostro narcisismo ha subito un colpo irreversibile e salutare con Galileo, con Darwin e con Freud, anche se ricordo c'è Anna Gilardi della Bollati Voringhieri, ricorderà quando ci fu appunto la esposizione per l'anniversario di Freud organizzato dalla casa editrice, lui mi teneva sotto braccio Johnny e mi diceva: vedi Giacomo, dopo i 40 anni lui ha smesso di fare il medico. 40 anni ha smesso di fare il medico, ha prodotto cose bellissime dal punto di vista della storia culturale. Vi riferisco quasi alla lettera quello che mi diceva, non aggiungo né tolgo nulla perché appunto sarebbe assurdo che lo facessi. Lui dopodiché ha dato dei contributi straordinari per l'interpretazione del destino, della civiltà, dei contributi culturali straordinari, ma non ha dato più un contributo scientifico realmente innovativo. E qui trovo un punto molto importante che voi dite: Freud non basta, Freud in qualche modo non basta più, cioè l'inconscio freudiano non è più sufficiente. Certamente punto di non ritorno, ma perché oggi noi abbiamo a che fare, questo che Johnny diceva sempre, con nuove sfide che lui vedeva sostanzialmente nelle nuove frontiere delle neuroscienze. Questo diceva anche del cognitivismo, delle scienze cognitive e delle neuroscienze. E naturalmente diceva una cosa alla quale io credo profondamente, che siamo oggi in un tempo in cui il pensiero filosofico deve congedarsi, deve prendere congedo da una idea di confine che il pensiero filosofico ha sempre demarcato da Platone fino ad Heidegger compreso, la linea di confine tra uomo e animale. E non c'è una linea di confine essenziale tra uomo e animale, non c'è. Noi non abbiamo uno statuto essenzialmente privilegiato, e questo è il dato fondamentale. E la coscienza, diceva Johnny, ci ritornerò, è un monitoraggio, è il modo in cui noi monitoriamo a diverse gradazioni di intensità. Se io faccio la passeggiata, diceva Johnny, nel mio quartiere il livello di monitoraggio può essere molto basso. Se io sto parlando adesso dei testi di Johnny Jervis, il livello di monitoraggio, mi auguro, è un pochino maggiore, un monitoraggio meno sbiadito. E altri, diciamo, temi che affiorano in questi testi, ma che affiorano nei commenti molto belli e fatti da Marraffa e da Corbellini. Autoillusioni, autoinganni, queste tematiche, cioè l'autocoscienza è anche un autoinganno, questa idea, e qui il mito dell'interiorità è anche il tema delle retoriche dell'interiorità. E naturalmente questo significa che il miglior pensiero critico europeo, e aggiungo di impronta laica, questo era una vera e propria, un imperativo categorico di Johnny, no? Imperativo categorico di Johnny, no? L'impronta laica del pensiero, che non voleva ovviamente escludere anche il colloquio con credenti. Lui aveva una formazione valdese, il suo più grande amico era Mario Miegge, il problema vero è l'impronta laica, il modo in cui noi affrontiamo, la radicalità con la quale affrontiamo i problemi. E questo naturalmente determinava una rottura con il paradigma essenzialista, l'idea dell'io, del sé, della persona, come qualcosa dotato di una sostanza, di una consistenza. Guardate bene, cioè la critica all'essenzialismo significava la critica a qualcosa di garantito, cioè la concezione garantita è la frase che è posta in esergo, no? Proprio appunto da Marraffa nella sua introduzione, è una critica alla concezione garantita dell'identità individuale. E quindi la guida, il filo rosso di Johnny è sempre stata una critica al presupposto sostanzialistico, che in qualche modo era un presupposto filosofico. Non lo so quanto, come avrebbe reagito al sottotitolo tra psicologia e filosofia, Mi diceva: Giacomo, la filosofia non serve più, mi faceva lui ogni tanto per queste sparate. Filosofia ormai non serve più, faceva battute di questo genere. E anche se poi era curiosissimo delle cose che uscivano in ambito filosofico, però era una battuta che mi faceva. Era la critica al sostanzialismo nella filosofia come nella scienza, anche la tendenza di alcuni scienziati a pontificare, no? Un po' sostanzializzando. E badate bene, tema che era un suo pallino, la comparsa tardiva del concetto di funzione, sia nella psicologia sia nell'ambito delle scienze fisiche. E io penso qui naturalmente c'era l'imprinting mitteleuropeo anche internazionale di Johnny. Johnny era uno che aveva la testa dibattiti che si svolgevano tra la Germania e il mondo anglosassone, era molto amico di Cesare Cases, attentissimo a quello che accadeva nell'ambito delle scienze e della cultura tedesca, conosceva profondamente. In qualche modo abbiamo visto in interazione critica, ma in interazione con la scuola di Francoforte, con alcuni temi della scuola di Francoforte, la società di massa e via dicendo. E naturalmente qui il concetto di funzione è come non pensare a Cassirer, a quel grande testo di Cassirer del 1910, Substanzbegriff, Funktionsbegriff, concetto sostanza e concetto funzione. Anche per Johnny quello lì era un testo chiave per il discorso di tipo epistemologico. Mito dell'interiorità, retoriche della interiorità. E qui il tema che Massimo Marraffa ha messo molto bene in evidenza. In Freud noi abbiamo una desacralizzazione della coscienza. La coscienza, che il foro interiore agostiniano e cartesiano, viene desacralizzato e sottratto al privilegio che non perché, badate bene, la coscienza non sia un fatto importante, perché poi per altri versi Johnny era convinto che il vero enigma oggi non è l'inconscio ma la coscienza, per l'appunto, no? Che si è spostato il problema rispetto a Freud. Però Freud ha avuto questo compito storico enorme di operare una desacralizzazione della coscienza in due direzioni. Nella analisi delle pulsioni inconsce che stanno al fondo, e quindi il materialismo, diciamocela tutta, cioè era un materialista radicale, che recupera sia pure tardivamente un materialista marxista come Sebastiano Timpanaro. Guardate bene, Timpanaro è stato un autore, il Timpanaro grande filologo, eccetera, che io ho avuto la fortuna di conoscere quando ero studente universitario e di restargli poi amico fino alla fine, è un autore molto più noto nel mondo anglosassone che non in Italia. Sebastiano Timpanaro è un autore culto, ancora oggi, un autore culto della sinistra radical anglosassone, ma pressoché sconosciuto e dimenticato da noi in Italia. La siloge di saggi sul materialismo, uscita da un piccolissimo editore, Nistri Liski, tanti anni fa, è un capolavoro, è una cosa straordinaria. Ma andando avanti, il secondo aspetto per cui Freud era per Johnny importante, il tema della rimozione. La rimozione che significa per lui il rapporto che noi abbiamo tra la nostra coscienza e il non voler sapere. Cioè è un po' è il rovescio di Kant. Cioè c'è Kant, ma c'è il rovescio dell'io penso, il lato oscuro dell'io penso, noi il sapere aude, no? Osa sapere, eccetera, no? E invece il non voler, la resistenza al sapere, il rifiuto delle verità scomode. Noi siamo costruiti, e probabilmente anche non soltanto le storie individuali, ma anche le storie collettive, le storie della civiltà, sono in qualche modo condizionate da questo rifiuto, da questa rimozione delle verità scolastiche. Ma Johnny sapeva che il rimosso, come ogni buon rimosso, ritorna inconsciamente, in figure inconsce, si vendica inconsciamente, ritorna. E naturalmente questo gioco della rimozione alla fine lo si paga caro. Tema dell'identità, ho pochissimo tempo, e Johnny sul tema dell'identità si collocava lungo la linea d'ombra, uso questa espressione letteraria, shadow line, proprio tra necessità dell'identità. Noi per vivere dobbiamo acquisire un'identità, acquisire un processo, una costruzione, e l'ossessione identitaria, quella che io chiamo cioè la reificazione dell'identità, cioè i miti dell'origine, il mito della purezza, la paura della contaminazione, la proiezione paranoica su soggetti altri della negatività. È così che nascono fuori i razzismi, l'antisemitismo, tema cui Johnny era molto sensibile. Abbiamo fatto nel 1992, se non vado errato, o 91, 90, no, 92, un viaggio insieme in Israele, e si commentavano molto queste tematiche, no? Questa idea. E allora qui, insomma, è del tutto evidente che questo tema della... Ecco, il razzismo, secondo lui, non poteva essere curato con una negazione astratta o astrattamente umanistica, umanitaria degli stereotipi. Diceva, gli stereotipi vanno messi in campo fino in fondo, bisogna che la gente, cioè era contro il politicamente corretto, contro questa cultura del pianisteo, mi ha chiamato, no, occorre che le diverse storie culturali siano in grado di fronteggiarsi anche mettendo in campo gli stereotipi attraverso i quali si sono trattate reciprocamente. Un po' perché dietro ogni stereotipo c'è qualcosa di vero, è come non lo sappiamo noi italiani davanti allo scenario nostro della politica e della società, quanto alcuni stereotipi sull'italianità sono assolutamente fondati, no? E certo c'è un'altra Italia, c'è sempre altra Italia, ma probabilmente c'è qualcosa che dentro è appunto quest'altra Italia, mi pare sempre più sottile, appunto, sì. Appunto, allora lì il problema vero secondo me è esattamente quello di andare a vedere come si mettono a confronto gli stereotipi. E dunque vi è una sorta di alleanza, complicità inconscia tra il mito dell'io debole, la frantumazione diciamo postmoderna, no? Dell'io, e la reificazione identitaria. Sono due lati della stessa medaglia, Qui non approfondisco una serie di questioni che avevo affrontato con lui quando mi diede il dattiloscritto del suo testo contro il relativismo, anche una serie di osservazioni che gli ho fatto. Ma io sono anche antirelativista come lui. L'unica cosa che lui, alla fine, dopo aver pubblicato il libro, la sua preoccupazione fondamentale, questo lo dico perché l'analisi critica si intreccia alla testimonianza inevitabilmente, la sua preoccupazione, Flavia me lo può confermare, era che le sue posizioni potessero essere scambiate per posizioni un po' tenere nei confronti di forme di antirelativismo cattolico. Era assolutamente preoccupato di questa cosa. Diceva, Giacomo, non vorrei che mi si confondesse. No, il discorso è molto chiaro, ma dato che alcuni fanno finta di non capire, hai tutti i mezzi con la tua spigolosità per contrapporti, dicevo, a Johnny, perché ragioni era spigolosità. E dice Gilberto della postfazione una cosa assolutamente importante. Lui riteneva che all'interno della cultura della sinistra avesse preso piede sempre di più una funesta superfetazione del romanticismo, e cioè una sorta di rifiuto di tutto ciò che la modernità aveva prodotto, ivi compreso il capitalismo. Cioè lui diceva, il capitalismo non è peggio, può determina forme di ingiustizia spaventose, sfruttamento, ma se è vero quello che diceva la parte migliore di Marx, il capitalismo ha rappresentato sicuramente un progresso, un passo avanti rispetto alla società feudale, e che il passaggio dall'homo hierarchicus all'homo equalis ha rappresentato sicuramente un vantaggio, un valore aggiunto, come si potrebbe dire oggi dal punto di vista economico. Ecco, e dunque, ma la modernità per lui significava anche atteggiamento di skepsis, di scetticismo. Almeno io così l'ho vissuto, e così mi pare che Corbellini e Marraffa anche lo vedono molto correttamente. Cioè, la modernità significa evitare di assumere come naturalmente dato ciò che è invece un costrutto mitologico. Cioè, nel senso che a volte noi assumiamo nella nostra modo di essere come dato, come naturale, quello che è naturalmente, e dobbiamo sapere che il mistero del nostro, uso un'espressione speculativa, del nostro essere nel mondo, a differenza di quanto pensava un autore falsamente profondo come Heidegger, sta nell'intreccio inestricabile che si dà tra l'innato e l'acquisito, ciò che è innato e ciò che è acquisito. Il mistero dell'evoluzione è proprio questo, l'innato e l'acquisito si intrecciano. Noi abbiamo nel nostro DNA la lingua, che è però una acquisizione culturale, e abbiamo dunque un feedback, una retroazione del culturale sul biologico, quindi non una determinazione biologica del culturale, che c'è anche quella, ma anche un feedback, una retroazione del culturale sul biologico, e dunque la linea d'ombra tra ciò che è innato e ciò che è acquisito in qualche modo è destinata sempre più appunto a sbiadirsi. Per Johnny, una volta che si comprenda questo punto di arrivo, provvisorio naturalmente, provvisorio problematico, come ogni risultato della scienza, si potrà dire a chi lo ha capito benvenuto nel XXI secolo. La parola, adesso la parola a Mario De Carlo. Grazie, grazie Giacomo. E dunque, io ho conosciuto Giovanni Gervis tramite Massimo Marraffa e negli ultimi anni della sua vita, forse gli ultimi 6-7 anni, e abbiamo fatto anche svolto alcune attività insieme. E quindi l'ho potuto conoscere personalmente, nella sua spigolosità dovuta, secondo me, e poi ci ritorno, perché c'era anche una ragione che, secondo me, sostanzia la sua atteggiamento culturale generale, la sua origine valdese, quindi alla sua etica, che appunto, come poi Giacomo diceva, era espressione di quell'Italia che si deve essere purtroppo un po' minoritaria, di un'Italia per cui l'etica è una parola che ha ancora un senso. E dunque, la cosa che impressiona di più, secondo me, per uno della mia generazione, quindi più giovane parecchio di Gervis, è il fatto che egli abbia partecipato praticamente a tutte le esperienze culturali più importanti che ci sono state in Italia a partire dagli anni 60, finché è stato in vita. Questo è veramente incredibile, vedere come Gervis sapesse dall'inizio quali erano i fermenti culturali più vitali. Nel 1900, tra il 59 e il 60, e quindi fresco, credo, di laurea, sì, poco più, di specializzazione forse, e andò con Ernesto De Martino nelle leggendarie spedizioni al sud a studiare la Taranta e le forme di pensiero magico. Era lo psichiatra del gruppo, secondo me l'esperienza culturale forse più importante, più rilevante, più originale che c'è stata in quegli anni, e lui era lì a discutere con Ernesto De Martino, che era un antropologo, un grandissimo antropologo, anche filosofo, che veniva da una tradizione molto diversa da quella poi gervisiana, perché sostanzialmente De Martino veniva da Croce, da cui si è emancipato anche con molta forza, e però capì Gervis che lì c'era una sostanza teorica profondissima. I lavori di De Martino continuano a essere letti, commentati, discussi, veramente una forza teorica enorme, e Gervis diede un contributo importante, perché, come sapete, uno dei punti di forza dell'esperimento di De Martino fu coniugare l'antropologia canonica, in diverse forme poi, dell'antropologia con la psichiatria, e qui e lì il ruolo di uno psichiatra professionale come Gervis si sente. Per esempio, se prendete Su De Magia, c'è tutta una sezione di connessione tra i rituali magici, il fenomeno della possessione e gli stati di interesse psichiatrico studiati nei più grandi testi dell'epoca. E quindi c'era, Gervis c'era, come c'era poco dopo, o negli stessi anni, nella grande esperienza intellettuale dell'Einaudi. Lui lavorava a contatto con Bobbio, con Cases, quindi forse nella casa editrice più importante di tutto il dopoguerra. E poi, dovendo parlare di marxismo in questa sede, questa è la sede in cui a Roma forse il marxismo è stato discusso con più autorevolezza. Ecco, Gervis era nel gruppo di Renato Panzieri, forse una delle espressioni migliori, più sincere, meno modaiole del marxismo, cioè di fronte al marxismo imperante di quegli anni, consistente nel fatto che poi Marx non lo leggeva nessuno nella sostanza, Panzieri e il suo gruppo tornavano a leggere Il Capitale, il testo più aspro e più importante di Marx, che ovviamente tutti si guardavano bene durante i cortei dal leggere. Lui era lì, era anche con Panzieri, finché poi Panzieri morì giovane, ma secondo me l'influsso su Gervis fu chiaro. E fu naturalmente, qui poi c'è Gilberto Corbellini che ne ha discusso a lungo, fu con Basaglia nella grande, controverso esperimento che Basaglia sviluppò, soprattutto tra gli anni 60 e 70, rispetto alla psichiatria. Gervis non condivideva le idee di quello che poi divenne l'antipsichiatria, ma certo era atterrito di fronte alla disumanità degli istituti psichiatrici tradizionali. Discutevamo prima con l'amico Orlando Franceschelli, che appunto era anche, lui faceva parte di quel gruppo, e lui andò a visitare, poi magari ce lo puoi raccontare, cos'erano gli istituti psichiatrici nel sud Italia, per esempio, di una disumanità tremenda. Quindi ciò naturalmente non giustifica e non ha giustificato per Jervis gli eccessi poi antipsichiatrici che da quell'esperienza alcuni derivarono, e forse per questo ci fu anche una sorta di rottura negli ultimi anni con Basaglia, e tuttavia resta la sua lotta per pensare la psichiatria in modo radicalmente nuovo. E poi ultimo elemento teorico, prima di quelli che poi appunto andò declinando negli ultimi anni, la sua riflessione sulla psicanalisi, che ne appunto lui è stato uno dei massimi, dei più originali esponenti del pensiero psicanalitico, con, appunto, che coniugava con una conoscenza psichiatrica di fondo, naturalmente, al di là poi, a differenza di molti psicanalisti che magari venivano dal mondo umanistico, lui veniva dalla psichiatria. E poi agli ultimi anni c'è la svolta cognitiva nel pensiero di Jervis, che è un po' una conclusione naturale di tutto questo percorso, che è un percorso che non si è mai allontanato. Vedete, era stato vicino all'antropologia culturale di Martino, era stato vicino alla psicanalisi, ma non si è mai allontanato dal pensiero naturalistico, sostanzialmente dall'idea che non si può fare riflessione sull'uomo che non tenga presente in modo importante ciò che le scienze ci dicono sull'essere umano. E la svolta cognitiva degli ultimi anni, appunto questo libro è intitolato, io penso che Marraff e Corbellini l'abbiano fatto anche con una affettuosa ironia, tra psicologia e filosofia, diceva giustamente Giacomo, di filosofia poi alla fine, alla luce dei quesiti psicologici, per esempio quello del libero arbitrio, resta poco, ben poco. Se... immagino le battute di Jervis soltanto. No, ma perché i problemi filosofici in qualche modo si dissolvono, secondo lo Jervis degli ultimi anni, se vengono visti dal punto di vista delle scienze cognitive. Non vuol dire che non siano importanti, vuol dire che no, trovano certo una risposta di qualche tipo. Però diciamocelo, la stessa psicologia, come era stata pensata, la psicologia intenzionale, certo, tende alla dissoluzione, certo, di fronte per esempio alle neuroscienze cognitive o alla teoria dell'evoluzione, che sono i due grandi, certo, strumenti oggi della seconda ondata della seconda scienza cognitiva, a cui Jervis aderì con molta forza. E poi da questo trasse la grande lezione antirelativista, antispiritualista e di polemica con tutte le forme di antinaturalismo tanto comuni nella nostra cultura, soprattutto nella seconda, dal fascismo in poi, insomma. Ieri sul Sole c'era una pagina a cui ha contribuito anche Gilberto, sostanzialmente a partire dalla grande figura di Federico Enriquez, ci raccontava cosa sarebbe potuto essere la cultura italiana se non ci fosse stato imposto un così importante ipoteca antiscientifica, perché questo è successo. L'Italia all'inizio del Novecento era ancora una cultura in cui per esempio la matematica e la fisica erano le più importanti del mondo, e oggi ovviamente ci ritroviamo in una situazione di grande decadenza, non solo della scienza, anche della cultura umanistica, cioè questo almeno, questa par condicio c'è. E, tuttavia appunto... No, forse non lo capiscono, o perché non si sono aperti poi all'idea che la stessa scissione tra le culture umanistiche e quella scientifica è saltata, secondo me almeno, se si adotta una visione di naturalismo minimale perlomeno, che era quella poi che sicuramente Jervis richiedeva. Lui era anche un grande umanista, cioè una cultura umanistica formidabile. Non vuol dire che non bisogna leggere i classici, non bisogna studiare la filosofia o la letteratura, vuol dire che quando si studiano i problemi relativi alla natura umana non si può ignorare quello che ci dicono oggi per esempio la scienza cognitiva o la teoria dell'evoluzione. Questo è il messaggio finale di Jervis. Per esempio, rispetto a Freud, c'è stata tutta... Freud, ho avuto anche un'esperienza, una volta ho scritto per un giornale una recensione del libro di Jervis, un libro di Jervis, e qui sostanzialmente la redattrice si arrabbiò molto perché io ero troppo simpatetico con il tradimento di Jervis verso la psicanalisi. Io trovai questo punto di vista, a parte intollerante in generale, ma anche sbagliato, perché il punto di Jervis non era che contro la psicanalisi in quanto tale. Per lui Freud era uno dei grandissimi pensatori della storia dell'umanità, ma come lo era Galileo. Tuttavia la fisica non è più galileiana, certo, così come la scienza della mente, di cui appunto, della cui storia Freud è un campione, non è più freudiana. Si è andati avanti, anzi penso sotto sotto che Jervis pensasse che Freud oggi sarebbe stato d'accordo con lui. come pensa anche, lo scrive, che De Martino sarebbe stato d'accordo con lui e avrebbe compiuto una svolta in senso naturalistico della sua antropologia. Gli elementi già ci sono in De Martino, dell'ultimo De Martino. Comunque, un aspetto che voglio chiarire per concludere è come, e mi sembra appunto un modo di illuminare la figura complessa, poliedrica di Giovanni Gervis, come lui si poneva rispetto a una questione importante, fondamentale della filosofia, l'ho citata prima, quella del libero arbitrio. C'è qui un saggio molto bello, e vi leggo le ultime parole. Lo stesso atteggiamento scettico, in generale lo scetticismo che viene dall'usare la scienza per giudicare, per studiare la natura umana, lo stesso atteggiamento scettico conduce a dubitare che l'espressione libero arbitrio abbia un senso. Ogni singolo processo decisionale, anche se detto consapevole, potrebbe quindi essere l'esito probabilistico di una molteplicità di fattori motivazionali, che in larga prevalenza non sono accessibili all'introspezione. In quest'ottica non esisterebbe neppure mai una vera scelta cosciente fra due o più opzioni. Si tratta in definitiva di un dubbio non nuovo, la cui paternità risale a David Hume. Secondo la formulazione più concisa di questa idea, noi chiamiamo volontaria non già quell'azione che abbiamo compiuto per effetto di una procedura di scelta razionale, ma ben diversamente solo quell'azione che subito dopo noi non ci stupiamo di aver compiuto. In questa prospettiva l'inconscio domina, come è evidente, su tutta la vita mentale. Questo articolo, questo saggio, pubblicato nell'antologia curata da Corbellini e Marraffa, si chiama La rivincita dell'inconscio. Ora, però, bisogna chiarire subito che l'inconscio di cui si parla non è l'inconscio della psicanalisi. Freud ha avuto il grandissimo merito di mostrare che la visione cartesiana della mente centrata sull'idea di coscienza fosse erronea. Ma aveva pur sempre un'idea di inconscio che era sostanzialmente parassitaria sull'idea di coscienza, perché l'inconscio di cui parla Freud è recuperabile alla coscienza, a questo serve la terapia psicanalitica. Uno va lì, una quindicina d'anni, e il rimosso, l'inconscio può riemergere alla paga, paga, riemergere alla coscienza. L'inconscio cognitivo di cui parla e che ha la rivincita sull'idea cartesiana non è altro che l'inconscio neuroscientifico, quello di cui ci parlano le neuroscienze, qualcosa che in linea di principio rimarrà sempre opaco al soggetto. Questo è il punto, è un inconscio irrecuperabile per il soggetto. No, non solo, sì, certamente è più ampio, ma soprattutto è l'inconscio che in sé non può essere conosciuto dal punto di vista della prima persona, ma casomai dal punto di vista del neuroscienziato che studia il cervello del soggetto. Quindi in qualche modo è un inconscio che, se conoscibile, è conoscibile da un punto di vista in terza persona. Per questo resta opaco, per questo l'idea di libero arbitrio secondo lui non ha senso, così come l'ha declinata la tradizione occidentale. Cos'è il libero arbitrio? L'idea che tra scelte possibili io opto razionalmente per una o l'altra. Non c'è niente di tutto ciò per Gervis, perché esistono solo confabulazioni a posteriori. In qualche modo il cervello, la nostra storia fisiologica, la nostra storia biologica ci porta a compiere delle azioni, fare delle scelte che però noi non, di cui non siamo consapevoli, non siamo consapevoli del perché scegliamo qualcosa o qualche altra cosa. La verità è che non avevamo scelta, facciamo ciò che ci ditta dentro, ma questo dittare dentro è il dittare delle neuroscienze. Vi parlo di un esempio molto bello, che è tipico esempio marraffiano. Massimo Marraffa lo fa sempre agli studenti alla prima lezione e li travia per sempre nella giusta direzione, però li travia nel senso che poi diventa difficile giustificare il fatto che continuiamo a fare filosofia quando li ha traviati così. Perché qual è l'idea? È un esperimento molto semplice. Se noi mettiamo là quattro collan da donna neri, li mettiamo tutti in fila e vi chiediamo, metteteli un po' in gerarchia, qual è il migliore? Qual è il paio di collan migliori? Bene, l'80% di voi dirà che il paio migliore è quello all'estrema destra. Allora noi vi chiediamo, guidati dal sagace Massimo Marraffa, perché è il migliore? E voi dite, beh, il migliore, vedi, il tessuto, si vede il colore, è chiaro che è migliore, meglio. In verità quei quattro collan sono identici. Voi avete agito perché la nostra mente ha un bias, che conosceva anche Aristotele peraltro, a favore della destra, il che forse spiega anche alcune cose di questo sventurato paese. In generale dell'umanità. In ogni caso, la cosa interessante non è solo il fatto che noi privilegiamo la parte destra e non ne siamo consapevoli, ma che dopo diamo delle spiegazioni, ci giustifichiamo con noi stessi per il fatto di aver scelto quella cosa lì. L'80% di noi che ha scelto in base a questo bias dirà, beh, vedi, è più bello, eccetera. Niente di vero, sono affabulazioni, confabulazioni che noi diamo per giustificare prima di tutti a noi stessi il fatto che abbiamo operato una scelta che in verità non è dipesa da noi. Questo, ci sono molteplici evidenze che questo sia vero in molti campi della vita umana. Jervis arrivava a una conclusione su cui qui abbiamo forse ipotesi, idee diverse. Jervis era molto estremo nel dire che in verità tutte le scelte umane sono così. E quindi il libero arbitrio non c'è mai scelta, siamo sempre a spiegare cose che ci accadono, d'accordo? A dare razionalizzazioni a posteriori di cose che non controlliamo, comportamenti nostri che non controlliamo. E tuttavia, e qui chiudo, questo in Jervis si coniugava con un altro peculiare aspetto, con il fortissimo, l'ho detto prima, il fortissimo senso della responsabilità, dell'etica. Da una parte non c'è libertà, però dall'altra lui credeva fortissimamente nella responsabilità personale. Questa è una posizione un po' delicata in filosofia, perché di solito si dice, lo diceva Kant, lo diceva Hume, che senza libero arbitrio non c'è responsabilità morale, d'accordo? Perché se non siamo liberi di scegliere perché dovremmo essere detti responsabili di ciò che facciamo? Tuttavia in molta filosofia contemporanea c'è chi ha sostenuto proprio questa tesi, cioè che noi non potremo mai rinunciare all'idea di responsabilità, come dire, passare a un piano diverso di spiegazione dei comportamenti reciproci in cui ci dobbiamo attribuire responsabilità, anche se sappiamo poi dal punto di vista teorico che non c'è un fondamento come lo cercavano i filosofi di questa responsabilità. E qui Jervis, lo sappiamo tutti, chi l'ha conosciuto, diventava veramente rigoroso, cioè da una parte diceva non siamo liberi, ma dall'altra diceva dobbiamo essere fortissimamente responsabili, e si arrabbiava in primis con se stesso, era feroce con se stesso, con l'autocritica verso ciò che faceva e verso gli altri. E questo gli veniva chiaramente da un'eredità valdese, secondo me. Il calvinismo era esattamente questo, come sapete. Cioè l'idea che non c'è libertà umana e tuttavia sul fortissimo senso della responsabilità personale. Una sorta di paradosso da cui, secondo Max Weber, nasce addirittura il capitalismo. Per Jervis ciò significava sostanzialmente che la scienza ci portava a un tipo di conoscenza ormai per lui acclarato. Lasciamo perdere l'idea di razionalità, di libero arbitrio, e tuttavia lui non avrebbe mai accettato conclusioni che invece echeggiano spesso, per cui allora non c'è più il senso di responsabilità e non c'è più l'etica. Ecco, questo lui, io credo che non l'avrebbe mai sottoscritto un giudizio di questo tipo. Grazie. Grazie a Mario. Allora, intanto per la cronaca, io sono un mancino corretto e quindi non so rispetto alla collana, al collan, come mi collocherei. Comunque ora qui c'è uno studioso della mente, anzi del cervello, che è Alberto Riverio, e lo ascolteremo. Ma ti ringrazio anche per la correzione. Devo dire che se avessi sentito, diciamo, 15 anni fa Massimo Marraffa, avrei detto i filosofi sono molto radicali nelle loro posizioni, più dei neuroscienziati. E invece oggi, invece oggi, ascoltandovi, devo dire che, considerando quello che dicono i neuroscienziati, che non c'è poi questa enorme differenza, insomma, quindi alcuni degli aspetti che possono sembrare, ecco, sul libero arbitrio, su altri aspetti delle decisioni e così via, i neuroscienziati sono in perfetta, sincronia con alcune delle posizioni dei filosofi. Siccome l'hanno fatto gli altri, vorrei partire da un aspetto, cioè dalle mie conoscenze di Jervis, che risalgono, poi ci siamo perduti per strada, insomma, risalgono molti anni fa, quando io insegnavo psicologia fisiologica, e lui era venuto in facoltà, siamo all'inizio e mezzo degli anni 70, sono metà degli anni 70, la facoltà era molto agitata, dato gli anni, e il 77 per la psicologia è a Roma. È stato un anno particolarmente vivace, c'erano discussioni e c'era un qualche fraintendimento, di cui sono grato a Gilberto Corbellini, anche a Marraffa, insomma, di avere in qualche modo chiarito dal punto di vista metodologico e scientifico. Cioè, questi luoghi comuni sulle infatuazioni intellettuali di Jervis, cioè questo suo passaggio, diciamo, dell'essere un modaiolo, per intenderci, da De Martino a Basaglia e poi alla psicologia evoluzionistica, alle neuroscienze, in qualche modo lo segnavano in facoltà. la maggior parte dei colleghi consideravano che lui esprimesse delle posizioni che variavano nel tempo e che lui le cavalcasse in qualche modo, perché era la moda. Insomma, lo dico in maniera molto semplice, ma insomma, sostanzialmente questo portava a delle forme così di dissidio e poi di separatezza da parte di Jervis nei confronti dei suoi colleghi, certamente anche forse acuite da questo suo indole, diciamo, verdese, da un carattere appena spigoloso, ho detto appena, ma insomma, diciamo spigoloso, da una sua anche onestà intellettuale, perché un termine che mi ricordo, che lui, penso che l'abbia introdotto lui, se non altro, insomma, in molti ambienti, lui diceva spesso: qua c'è una sciatteria culturale incredibile. Aveva ragione, quest'idea della sciatteria culturale, cioè della passare nella discussione da un argomento all'altro, di non precisare i termini e via dicendo, senza dubbio non gli fa favoriva, non lo favoriva nelle sue posizioni in facoltà, ed è sempre restato una persona che in qualche modo è stata separata dagli altri, anche perché il suo insegnamento, psicologia dinamica, da un lato c'era lui, dall'altro c'era Caro Tenuto, che in qualche modo era estremamente più popolare di Jervis dal punto di vista degli studenti, dei clienti e via dicendo, era lo psicoanalista, diciamo, anzi l'analista, scusate, probabilmente più noto a Roma in quegli anni, e questo lo aveva ulteriormente respinto così verso posizioni così di non comprensione, di non in qualche modo collaborazione. Con Jervis abbiamo avuto alcune discussioni. La prima era quando è riuscito il buon rieducatore, e parlando del buon rieducatore si parlava appunto anche della terapia, dell'uso anche dei farmaci. Quello che mi ha stupito è che lui non fosse così opposto, attraverso dei pregiudizi all'uso dei farmaci quando necessario in psichiatria. La cosa mi aveva sorpreso, eravamo entrambi giovani, insomma, e quindi ognuno più assertore, almeno ritenevo, della propria disciplina. Io allora dirigevo un'unità di psicofarmacologia, quindi lo guardavo, insomma, in qualche modo, forse anche per quei pregiudizi, quelle etichette che poi alla fine caratterizzano le persone, è un basagliano, quindi è essenzialmente contrario ai farmaci. Invece poi parlandone, insomma, avevamo chiarito alcuni aspetti, senza dubbio non una psicofarmacologia, una farmacologia a pioggia, per carità, però riconosceva che in alcuni casi quello è un appoggio terapeutico, fosse, potesse essere una soluzione per alcuni problemi. Secondo aspetto, il suo interesse per quello che si faceva allora nel campo della... Allora si parlava soprattutto di etologia, le neuroscienze non era un termine ancora esistente, parlo sempre della seconda metà degli anni 70. Jervis era molto interessato al lavoro di alcuni etologi, era appena uscito dalla terza, se non sbaglio, un libretto di Hinde, che tu ben conosci. Avevamo conosciuto insieme Pat Bateson, un etologo di Cambridge che si interessava di imprinting e di memoria. Veniva spesso, anche perché conoscevo un altro membro del nostro istituto, un istituto di psicobiologia si chiamava, del CNR, veniva spesso a visitarci. E la cosa che mi ricordo lo attraeva era un aspetto che noi giudicavamo secondario, lavoravamo sulla memoria, sull'apprendimento, sul consolidamento, era come si potesse generalizzare un'esperienza. A ripensarci dopo, ovviamente questo era un aspetto per lui interessante, cioè come si potesse andare dallo specifico a categorie più fluttuanti, più vaste, che in qualche modo potevano influenzare il comportamento di un animale o di un essere umano. Ecco, su questo abbiamo avuto varie discussioni, mi ricordo che avevo incontrato anche Bateson in uno dei suoi viaggi a Roma, e appunto era stato uno degli aspetti che in qualche modo fanno parte del suo interessamento, non solo per l'etologia, ma per la psicologia evoluzionistica. Nell'introduzione e postfazione, quella di Marraffa e quella di Corbellini, parla ovviamente, come ovvio, dell'inconscio oggi e del fatto che l'odierna scienza della psiche è più freudiana di Freud, insomma, che cosa significhi questa affermazione, ovviamente non indica che si sia radicalizzata la posizione del freudianesimo, del freudismo, ma che molti aspetti appunto di ciò che noi conosciamo sul cervello in qualche modo portano acqua al mulino di ciò di cui non siamo consapevoli. Viene citato Hume, io direi che uno degli aspetti in realtà che avevano influenzato Freud e che hanno influenzato poi il cammino delle neuroscienze più recenti, perché niente poi emerge dal nulla, insomma, è stato il capitolo molto vivace nella seconda metà dell'Ottocento del cosiddetto inconscio cerebrale, gli studi di Laycock, gli studi di Griesinger, dei fisiologi tedeschi ed inglesi, insomma, probabilmente loro lo avevano, e poi degli riflessologi della scuola di Sechenov e di Pavlov, insomma, probabilmente questi studiosi semplificavano il funzionamento del cervello, però erano dei materialisti che indicavano come, così come noi possiamo studiare riflessi nervosi, riflessi spinali dotati di un automatismo e di una non consapevolezza da parte nostra, probabilmente mentre mi parlo in ognuno di noi ci sono una serie di riflessi di cui non siamo consapevoli, da quello pupillare a quelli della pressione, a quelli della peristalsi e via dicendo, così anche il cervello potesse funzionare attraverso categorie simili. Quindi l'idea dell'inconscio cerebrale, su cui mi ricordo è stato scritto un breve saggio che in italiano è stato pubblicato secondo me da Pratiche, non ricordo l'autore al momento, l'idea dell'inconscio cerebrale man mano è penetrato di nuovo nel campo delle neuroscienze e molti degli studi che vengono effettuati ora stanno ad indicare che numerosi aspetti del nostro comportamento avvengono in maniera non consapevole. Nell'introduzione di Marraffa appunto viene citato quello stesso che poi Jervis ha in qualche modo è stato così al centro dei suoi interessi, uno che è il cosiddetto ascolto dicotico, il fatto di escludere un canale sensoriale quando si presta attenzione ad un altro, ciononostante l'altro canale sensoriale può in qualche modo influenzare le nostre azioni, e l'altro sono gli studi di Weisskranz, un fisiologo inglese, sul cosiddetto blind sight, il fatto che nel caso di alcune lesioni della corteccia di V1, della corteccia visiva primaria, le persone non vedono, ma in realtà hanno una percezione non consapevole degli oggetti che li circondano, quindi possono comportarsi come se quegli oggetti ci fossero, li evitano, ad esempio in un campo aperto, evitano un ostacolo, ma non sono consapevoli di questo. Un aspetto, mi ricordo, tra le poche discussioni che abbiamo avuto con Jervis, era stato quello sulla, appunto me l'ha ricordato ora De Caro, sulla affabulazione o confabulazione, perché negli anni 70 erano, come dire, emersi con una certa forza gli studi di Penfield e di Rasmussen. Penfield, per chi non lo sapesse, era un neurochirurgo che stimolava alcune aree cerebrali, in particolare o della corteccia motoria o di quella sensoriale, per mappare queste strutture. Ovviamente lo faceva perché era interessato come neurochirurgo a risparmiare al massimo alcune aree quando doveva asportare focolai epilettici o tumorali. Ciononostante ha fatto un lavoro di primaria importanza e Penfield era andato fuori strada, nel senso che stimolando alcune strutture riteneva di avere attivato dei circuiti della memoria. Dico era andato fuori strada perché poi le sue osservazioni sono state confutate da molti analisti dei suoi protocolli e via dicendo. Ma quello che Penfield aveva posto in evidenza e che aveva appassionato Jervis era il fatto che quando noi compiamo un'azione che non è prodotta dalla nostra volontà, il neurofisiologo stimola la nostra corteccia motoria e grossolanamente induce, poniamo, un movimento dell'arto. Ecco, questo movimento dell'arto per noi non può appartenere all'area della irresponsabilità, non possiamo ammettere che i nostri arti si muovano a casaccio, diciamo. D'altronde la stimolazione elettrica della corteccia non è apparente all'io, in quanto non provoca dolore, non provoca altri correlati che possano tradire il fatto che la corteccia viene stimolata. A quel punto, se si chiede al soggetto perché ha mosso l'arto, affabula, confabula che dir si voglia, trova una spiegazione: c'era una mosca che volava qui vicino, volevo prendere un bicchiere d'acqua, ero intorpidito e via dicendo. Questo giustamente per Jervis era stato un aspetto importante della studi neuroscientifici dell'epoca, perché indicava appunto questa dissociazione che c'era tra, nel caso specifico, la motricità, a quanto pare poi non così tanto banale come noi la riteniamo, e la consapevolezza dei propri movimenti. E in molti disturbi del sistema nervoso, in molti disturbi a carattere neuropsicologico, esistono delle dissociazioni simili. Insomma, il paziente, al di fuori dei deliri e così via, può confabulare o affabulare e dare delle spiegazioni che non rispondono alla realtà. Quindi questo fa parte in qualche modo del cammino che Jervis ha attraversato, che lo ha portato poi a passare dalla psicologia evoluzionistica, che ha la sua matrice nell'etologia sostanzialmente, perché gli etologi erano dei sistematici, degli zoologi sistematici evoluzionisti che studiavano il comportamento, così era Lorenz d'altronde, che per primo ha mappato la genetica del comportamento nelle anatre, ecco. Studio di grande valore e poco ricordato. E poi, appunto, da questa ottica Jervis è passato verso quella delle neuroscienze, che probabilmente era diciamo, l'apertura che in qualche modo portava più acqua al mulino delle sue concezioni. Perché man mano i neuroscienziati chiarivano con esperimenti anche nemmeno di grande complessità, insomma, alcuni aspetti della non consapevolezza, dell'inconscio non freudiano e via dicendo. Penso che il settore è stato così, è avanzato in maniera così tumultuosa. Io per l'età che ho, insomma, l'ho visto nascere e procedere. Il nome neuroscienza è nato negli anni 60, insomma, e i primi convegni di neuroscienze si sono verificati all'inizio degli anni 60. Vedere come si sono trasformate, come sono passate da una serie di categorie non legate alla consapevolezza, all'inconscio e così, prima si è cercato di chiarire la motricità, la sensibilità, la visione e via dicendo, e poi si è passato a studi che hanno invaso il campo della non consapevolezza e dell'inconscio non freudiano. Probabilmente chi assiste a queste trasformazioni si rende meno conto dello storico, anzitutto, e poi di chi imbocca questo cammino più tardivamente. Penso che Jervis se ne fosse reso conto, in quanto aveva questa sua storia individuale, in cui aveva seguito vari aspetti, non soltanto della filosofia, ma dell'antropologia e delle scienze cognitive, e in qualche modo si rendesse conto della trasformazione che c'era nel nostro modo di concettualizzare il cervello e la mente, diciamo. Credo che chiunque abbia attraversato un percorso così lungo, in qualche modo, se dotato di onestà intellettuale, debba testimoniare il fatto che le sue posizioni di qualche decennio fa non potevano coincidere con le posizioni attuali, perché la scienza è questa, diciamo, serve per cambiare punti di vista, concezioni e ottiche con cui si guarda la realtà. Jervis l'aveva fatto e io, appunto, sono grato ai due curatori per averlo indicato e per aver sfatato un luogo comune che non è tanto soltanto di Jervis, ma che fa parte della storia del pensiero umano, individuale e collettivo, il passare da una concezione del mondo ad un'altra, rendendosi conto, se si è oculati e colti, diciamo, che si è partiti da un punto particolare e si è giunti ad un altro punto. Bene, grazie Alberto Oliverio. Adesso la parola Gilberto Corbellini, uno dei due curatori, come sapete, poi a casa. Grazie, io penso che lascerò a Massimo di rispondere sul sottotitolo, perché secondo me noi non abbiamo, cioè a Johnny forse non sarebbe neanche tanto dispiaciuto, insomma, di poter ma secondo me è una domanda invece sensata, ma poi Massimo vi dà la risposta, insomma, perché è una cosa su cui abbiamo anche un po' discusso. Ringrazio tutti, insomma, condivido larga parte delle cose che sono state dette, ma in modo particolare secondo me Alberto ha messo a fuoco un problema importante, che è stato anche un po' la cosa di cui noi ci siamo preoccupati scrivendo questo libro, cioè di sfatare, insomma, un po' di luoghi comuni su Jervis, anche perché, insomma, questi luoghi comuni li ho sfatati io per primo attraverso una mia esperienza, perché io ricorderò sempre che quando nel 1999 Attadio, che è il responsabile, ha detto stampa di La Terza, mi mandò il libretto di Jervis, Prime lezioni di psicologia, dice: no, questo secondo me ti interessa, perché insomma non scrivi qualcosa, eccetera, cosa che infatti poi feci. Per me fu una sorpresa, effettivamente. Io non leggevo Jervis da quando, da studente all'università, avevo letto il manuale critico di psichiatria, e anch'io associavo Jervis sostanzialmente ancora a quella stagione. Dopodiché leggo questo libro, ma che gli è successo a Jervis? Insomma, che gli è successo? E a quel punto, voglio dire, ovviamente, siccome faccio di mestiere lo storico, la cosa diventa una curiosità proprio di quelle. Per cui mi sono andato a riprendere tutti i libri di Jervis, che nel frattempo alcuni li avevo pure comprati ma non li avevo mai letti, e è stato, insomma, interessante scoprire che effettivamente c'era stato un percorso diciamo sistematico, estremamente attento, diciamo, diciamo, appunto, ai cambiamenti che erano intervenuti e intervenivano sostanzialmente nella ricerca empirica, perché poi alla fine, se uno studia e legge e approfondisce, come poi mi è capitato anche collaborando con lui, anche attraverso il libro che abbiamo scritto, insomma, che è stata una cosa, insomma, molto divertente, su un'esperienza tra le più interessanti, perché all'inizio Johnny era partito dicendo, anche se poi, insomma, qui c'è Anna e sa bene, Anna Gilardi, e sa bene, insomma, come è nata l'idea di fare quel libro insieme, insomma, nel modo del tutto casuale, ma poi una cosa che lui mise in chiaro: guarda, che io non voglio assolutamente andare, insomma, questa acribia di voi storici che dovete andare a cercare di qua, a cercare di là, cioè deve essere una cosa, insomma, sciolta, in cui noi chiacchieriamo, insomma, quello che ci viene in mente lo diciamo. Ma poi alla fine una delle cose di cui andava più di cui era più soddisfatto, anche in un paio di presentazioni l'ha tirato fuori: sì, perché guardate che noi abbiamo fatto anche un lavoro storico serio, perché noi abbiamo fatto le note, ci siamo documentati, e quindi, insomma, questo è un lavoro, diciamo, in questo, storicamente, diciamo, e questo era, cioè, questo era Giovanni Jervis, che in tutto, diciamo, nel modo di pensare, ma anche nel modo di lavorare e anche nel modo di interagire, collaborare con le persone, era un vero laico, si poteva scontrare e tranquillamente si finiva, si poteva discutere, si poteva, diciamo, confrontare, ma poi tranquillamente si finiva che la scelta, la decisione che si prendeva era quella meglio corroborata dai fatti, che fosse sua o che fosse mia, per lui era indifferente, cioè si prendeva quello che risultava valido e questo, credo, cioè, almeno per me è stata una grande lezione. Credo che in generale, insomma, anche la sua storia, appunto, ricostruirla e seguirla un po' al di fuori da queste mitologie, da queste idee che poi si sono diffuse, insomma, le reazioni che ci sono state ad alcune sue pubblicazioni, in modo particolare, insomma, contro il relativismo, insomma, tante persone si sono chieste: ma cosa gli è successo, si è bevuto il cervello, eccetera. Ma io, francamente, che si sia bevuto il cervello, se uno va a leggere i testi sul tarantismo, se va a leggere quella spettacolare secondo me, introduzione al libro Classi sociali e malattie mentali, scritta nel 64, nel 65, ma è una fotografia del dibattito antropologico, psicologico, empirico e in parte anche filosofico, una fotografia delle conoscenze che si avevano su come i contesti sociali e culturali potevano influenzare, contribuire alla genesi delle malattie mentali, dove praticamente lui non ha mai cambiato posizione rispetto a quelle cose. E se uno va a leggere il suo contributo all'istituzione negata, insomma, il suo contributo all'istituzione negata prende già, quindi già nel 68, chiaramente, quindi non è che il problema è che Jervis non... poi ha tradito, non ha tradito, Basaglia e vatte la pesca, insomma, cioè, uno basta che legga, cioè, basta che legga, non è mica un problema di come diceva lui, insomma, documentatevi prima di parlare, basta che legga quello che lui scriveva, ed è una netta presa di distanza già contro un certo spontaneismo e la tendenza che c'era in un gruppo che certamente ha avuto un'importanza nel cambiare l'atteggiamento culturale nei riguardi del disagio mentale, ma soprattutto nel riguardo della gestione istituzionale del linguaggio mentale, ha avuto un ruolo importante, ma c'era anche una quantità di spontaneismo e una incapacità di capire fino a che punto certe esperienze si potevano generalizzare e quindi anche di sapersi fermare. Questo, diciamo, è mancata, e Jervis lo ha detto molto chiaramente, il buon rieducatore, insomma, è una requisitoria, e poi ce ne sono altri, insomma, testi che esprimono molto chiaramente la sua posizione, ma quella non è la posizione, come qualcuno dice, interpretando la propria appartenenza a un certo percorso culturale come l'affiliazione a una setta, non è un tradimento, insomma, cioè quello che è successo francamente con la pubblicazione della razionalità negata, insomma, è da parte di qualcuno, insomma, è veramente inquietante. Poi non è che c'è da stupirsi, insomma, se in questo paese accadono le cose che accadono anche da un punto di vista politico, insomma, se all'interno della se la sinistra abbraccia queste posizioni, ma a me, per fortuna che la sinistra non va al governo, insomma, cioè, per fortuna, perché altrimenti non si sa veramente cosa succederebbe. Diciamo, quindi questo è beh sì, perché sono successe delle cose, insomma, voglio dire, no, appunto, per fortuna, come dice giustamente Pennacchi, che ormai è diventato uno degli unici, secondo me, che qualcosa sembra capire di politica, Vendole, tutti questi qua sono perfetti per perdere, soltanto sono il mondo della sinistra italiana, la politica della sinistra italiana è fatta di perdenti e accontentiamoci di questo. Però il problema, insomma, sono successe delle cose serie, insomma, sono state pubblicate delle vere e proprie scomuniche sui quotidiani con la redazione che rifiutava di, cioè, pubblichi una riflessione e poi tu chiedi, ma dateci 10 righe, insomma, qui c'è Anna Gilardi, insomma, ti stimo, dateci 10 righe, non è che io voglio una mezza pagina, mi dai 10 righe e io ti rispondo. No, questa è la nostra posizione e non si discute. Ho un altro quotidiano, sempre un quotidiano, insomma, della sinistra chic, che dice, ah, noi di questo libro non parleremo perché se ne parlassimo vedreste, cioè, lo facciamo a pezzi. Beh, fatelo a pezzi, insomma, cioè, provateci. E vabbè, comunque questa è stata una cosa, insomma, che la dice lunga ed è una cartina di tornasole importante, secondo me, sullo stato della cultura italiana in generale e purtroppo soprattutto di quella progressista. Io non ho molto altro da dire, insomma, e mi fermo sostanzialmente qui, perché, insomma, può entrare nel merito di tutte le questioni, libero arbitrio, responsabilità morale, il problema, diciamo, della come dire, di come Johnny, insomma, usava e lavorava con la psicologia e la filosofia, che secondo me è anche estremamente interessante, insomma, cioè, perché lui era un grande frequentatore, quello che lui piaceva molto era smitizzare proprio le assunzioni intuitive che c'erano nella psicologia e nella filosofia, utilizzando le scienze empiriche e utilizzando soprattutto la psicologia che torna a diventare seriamente con la svolta cognitivista, ma insomma anche prima, perché lui non è che disprezzasse il comportamentismo, per esempio, insomma, cioè, quindi non è che disprezzasse qualsiasi, diciamo, approccio empirico allo studio del comportamento umano. Sono anche molto, è vero anche questo fatto che lui era un materialista, è stato un materialista ma di un materialismo sofisticato, insomma, se uno legge, insomma, questo libro, secondo me molto bello, non so se è tradotto in italiano, il penultimo credo di Change, perché non adesso si ricorda mai bene qual è l'ultimo, ma quello L'onde verite, com'è? Non so se è stato tradotto in italiano, che si apre con un'affermazione che è un'affermazione importante, insomma, riprendendo Bachelard, Changeux dice la scienza di fatto non ha poi la filosofia che meriterebbe, e questo dipende dal fatto che i filosofi devono sempre così elucubrare su tutta una serie di questioni che di fatto sono del tutto secondarie e non riescono e non si rendono conto, insomma, della ricchezza che emerge proprio dalla scienza e da quanta bella e importante filosofia si potrebbe fare lavorando sulla scienza e soprattutto lavorando sul fatto che il materialismo oggi, insomma, non è più il materialismo meccanicista dell'Ottocento, insomma, cioè, stare ancora oggi a discutere, per esempio, sul determinismo generico, cioè, a volte si sta discutendo di cose che non esistono più. Il determinismo genetico è un spaventapasseri con cui noi ci stiamo, diciamo, discutendo, che non, è uno pseudo problema, però effettivamente perché, e a questo John interessava moltissimo, a proposito del razzismo, cioè che lui, su cui lui fa delle analisi bellissime, secondo me fa delle analisi puntuali, insomma, cioè io penso che le due pagine costantemente che ogni due o tre mesi leggiamo di Cavalli Sforza, padre e figlio, che ci dicono che le razze non esistono, sul problema del razzismo influenzano zero. Dire che le razze non esistono e pensare che perché le razze non esistono la gente allora non ha più questi atteggiamenti xenofobi è una, diciamo, è una ingenuità drammatica, ma pensare in questo modo vuol dire non affrontare il problema, mentre il problema è serio e andrebbe affrontato in altro modo, lasciando perdere il fatto che le razze esistono o non esistono, perché comunque le origini della questione sono diverse, e quindi a Johnny effettivamente interesserebbe molto, perché a noi invece siamo catturati dagli stereotipi, cioè perché a noi piace così tanto discutere su questioni che sono secondarie e facciamo così fatica invece a entrare dentro e a diciamo ad analizzare e utilizzare le tematiche e le conoscenze che sono davvero importanti, che sono davvero pertinenti, e questo ha ancora sostanzialmente a che fare con questo grande problema, diciamo, di essere dotati di un cervello e, tra virgolette, di una mente, chiamiamola così, anche se il termine, diciamo, è un po', in questo caso serve a chiarire e a generalizzare un certo tipo di problemi che non era stato previsto per vivere in questo tipo di società, insomma, noi siamo strutturati, siamo selezionati con delle predisposizioni che sono estremamente aperte, ma fino a un certo punto, ed erano funzionali alla vita, alla sopravvivenza in condizioni molto diverse, condizioni che francamente, insomma, sarebbe meglio, in cui sarebbe meglio non tornare, ma a cui molto spesso invece facilmente ritorniamo se non capiamo bene che diciamo, siamo dotati e siamo predisposti non solo a essere così tolleranti, aperti, disponibili, cioè, come dire, egualitari, eccetera, eccetera, ma siamo molto più facilmente, diciamo, predisposti a essere intolleranti, a essere invidiosi degli altri e ad avere tutta una serie di caratteristiche che non sono proprio quelle che aiutano la convivenza civile in società complesse. Grazie, Gilberto. Massimo. Allora ringrazio i relatori che insomma hanno valorizzato moltissimo insomma il lavoro che abbiamo fatto, e vorrei cercare di mettere insieme varie cose che sono state dette per far emergere il tipo di lavoro appunto si potrebbe definire filosofico, ma in un senso ha ragione Giacomo a dire che sicuramente non l'avrebbe visto di buon occhio, perché Giovanni fondamentalmente aveva questo tipo di atteggiamento nei confronti della filosofia intesa nel senso umanistico, spiritualistico, idealistico, quindi la identificava con un certo tipo di filosofia. Il suo tipo di riflessione in un ambiente anglo-americano sarebbe stato tranquillamente descritto come di tipo l'etichetta è filosofia informata empiricamente, insomma oggi c'è questo tipo, no? Quindi però lui, essendo in Italia, insomma, essere chiamato filosofo, insomma, sì. Ora, in realtà quello che io sostengo nell'introduzione, e che probabilmente forza anche alcuni punti del pensiero di Giovanni, essendo lui essenzialmente un pensatore dialettico, per cui era difficile che lui in qualche modo si fermasse in una tesi ben definita. E tutti i suoi libri sono caratterizzati da quasi il tormento di cercare appunto dialetticamente di tener conto di tutti gli aspetti, di tutte le angolature, di tutte le prospettive, e questo anche in testi che sarebbero dovuto essere didattici, perché si trovano per esempio nelle due introduzioni, che sono due libri straordinari, alla psicologia dinamica, una del 93, Fondamenti di psicologia dinamica, e Psicologia dinamica del 2000, che sono dei manuali, ma in realtà sono testi che manifestano, come dire, un impegno concettuale, appunto, che definirei filosofico, veramente straordinario. Vorrei soltanto, insomma, visto che appunto sono state dette varie cose, vorrei metterle insieme per darvi un po' l'idea di quello che intendo dire. Allora, il primo punto è che lui era un allievo di Freud, era un allievo di De Martino, ed era uno studioso di scienze cognitive, e lui queste cose le ha messe insieme. Le ha messe insieme, e questo caratterizzano, diciamo, definiscono un po' l'originalità di quello che potete trovare nella sua opera, che è un'opera non sistematica. Lui stesso diceva: io non sono sistematico, questa è una delle ultime cose che lui mi disse, e era vero, però la sua opera contiene delle intuizioni, delle messe a punto concettuali che a tutt'oggi io, insomma, raramente ho trovato in altrove. Ora, che cosa c'è, secondo me, il punto fondamentale? Il punto fondamentale è questo, detto proprio brevemente, che prima di tutto lui filosoficamente individua una tradizione di pensiero che lui in qualche modo etichettava come baconiana, che vede appunto la razionalità come critica degli autoinganni, delle autoillusioni. Quindi lui riteneva appunto che esistesse questa tradizione di pensiero critico di cui lui faceva parte, che si impegnava in una critica sistematica delle autoillusioni della soggettività autocosciente, di cui Freud anche faceva parte, e di cui Darwin faceva parte, cioè una tradizione che in qualche modo era baconiana e anticartesiana. Quindi, come dire, la sua impostazione di fondo era di questo tipo. E in che cosa consiste questa idea? L'idea consiste che l'organo, diciamo, che oggi noi abbiamo per portare avanti questa critica della soggettività autocosciente, quindi per proseguire il tipo di lavoro, cioè ciò che resta di Freud, perché lui aveva molto chiaro ciò che è vivo e ciò che è morto della psicanalisi Freud. Per lui era morto quasi tutto, però sicuramente della psicanalisi Freud rimaneva questa dimensione della critica della soggettività autocosciente, cioè della critica degli autoinganni, la tematica della malafede. E quello che giustamente Giacomo ci ricordava è legato al tema completamente in termini non psicanalitici, lui lo trattava della rimozione, insomma, no? Ora, questo tipo di critica della soggettività autocosciente, secondo lui, passava attraverso le scienze della mente. Cioè, in realtà, l'organo attraverso cui è possibile portare avanti questa critica della soggettività autocosciente, per Freud erano le scienze della mente, e anche all'interno delle scienze della mente, non tutte le scienze della mente stavano per lui sullo stesso piano da questo punto di vista. Lui, per esempio, sosteneva che la psicologia, molta psicologia sociale, era stata molto più avanti, per esempio, anche della psicologia sperimentale. Molta neuroscienza era stata più avanti di molta psicologia sperimentale. Quindi, come dire, da questo punto di vista, cioè nell'individuare qual era l'organo, appunto, da un punto di vista, in questa prospettiva baconiana, di critica della soggettività autocosciente, di critica delle illusioni della coscienza, lui andava a individuare quelle che erano le ricerche, come alcune citate da Oliverio prima, questi studi di Penfield, gli studi sull'ascolto di Cotico, quello citato, l'esperimento dei collan che è tratto da Nisbet e Wilson, e quindi andava a cercare in queste tradizioni ciò che aveva sviluppato sul piano scientifico sperimentale l'eredità freudiana. Cioè, lui riteneva che, da questo punto di vista, gli psicanalisti avessero tradito fondamentalmente l'eredità freudiana, e in realtà questa eredità fosse stata raccolta da tutta una serie di studiosi sul piano sperimentale, soprattutto gli psicologi sperimentali anti-introspezionisti, come appunto tutta la tradizione che è poi fortemente legata alla tradizione antimentalista del comportamentismo. Questo è un primo punto, quindi, che lega un po' di cose che sono state dette. Ma l'altro punto fondamentale è quindi che lui riteneva che le scienze cognitive avessero prodotto un sovvertimento di alcune questioni psicanalitiche. Tenete conto che il testo del 93, Fondamenti di psicologia dinamica, è un tentativo di ricostruire la tradizione della psicologia dinamica dal punto di vista delle scienze cognitive. Cioè, in questo Jarvis è stato praticamente quasi solitario, diciamo, in Italia, anzi forse direi solitarissimo, insomma. Lui cercava di ricostruire la psicologia dinamica, e ancora di più lo fa nel testo del 2000, Psicologia dinamica, in cui addirittura fa delle cose che lo fanno apparire un alieno, un totale marziano agli psicanalisti. Cioè, lui comincia a parlare di psicologia dinamica in termini di teoria dei giochi, di economia comportamentale e via dicendo. Insomma, questo tipo di cultura che, come giustamente diceva Giacomo prima, lui era assolutamente avanti a tutti sempre, perché conosceva dibattiti di quello che accadeva all'estero, mentre in Italia stavano ancora, appunto, a discettare se l'interpretazione lacaniana di Freud è ancora, diciamo che c'era sempre questo gap in Italia, insomma, di una ventina d'anni, per cui noi facciamo i dibattiti che si facevano negli anni 70 in Francia, no? Allora, il punto fondamentale per concludere questo discorso è che lui poi lega tutto questo a quello che era stata la sua esperienza, ecco, filosofica fondamentale, cioè il rapporto con De Martino, che è uno dei maggiori pensatori del dopoguerra, uno dei filosofi più originali, purtroppo chiuso in custodito dagli etnologi, il padre dell'etnologia italiana, ma soprattutto De Martino era un filosofo, e il punto fondamentale è che lui ripensa tutta la tematica dei meccanismi di difesa che c'è nella tradizione della psicologia dinamica nei termini del concetto di crisi della presenza di De Martino. Cioè, lui che era entrato in contatto con De Martino perché aveva, immaginate, insomma, il personaggio, cioè, voglio dire, lui si era appena laureato, era l'unico che probabilmente in Italia avesse letto da psichiatra Il mondo magico di De Martino ed era in grado di parlarne, insomma, con De Martino. Lui lo dice proprio esplicitamente, che questo è il motivo per cui poi De Martino lo reclutò nella spedizione di cui parlava Mario prima. Quindi l'idea è che lui medita questi testi di De Martino e diventano la chiave di volta per attraverso la quale lui ripensa tutta la tematica delle difese psicanalitiche, della fragilità del soggetto e tutta una serie di temi che fanno sì che lui in realtà in quel momento sta facendo una riflessione sull'ontologia che sta alla base delle scienze della mente. Quindi voglio dire, altro che filosofo. Cioè, su questo appunto voglio far parlare lui per concludere, solo due punti che sono tratti, uno da Fondamenti di Psicologia Dinamica e poi da un altro grande libro che lui ha scritto alla fine degli anni 90, è La Scoperta dell'Identità. Allora, nei Fondamenti di Psicologia Dinamica, e considerate che questo doveva essere un manuale per gli studenti di psicologia, quindi tenete conto di questo, scrive Jervis, la psicologia scientifica, quindi la psicologia scientifica, le scienze cognitive, lui sta parlando non della psicanalisi, ma di quello che oggi è la psicologia, vuole capire in che modo il soggetto umano giunga a esistere e a sopravvivere e a essere cosciente e a creare cultura, malgrado la fragilità delle premesse biologiche da cui parte. Si potrebbe dire che il problema non è più di sapere come l'essere umano possa scendere rispetto al livello di nobiltà a cui era stato collocato, ma al contrario come possa salire fino all'autocoscienza e alla cultura, malgrado l'assenza di un'identità e di una forza che lo garantiscano, malgrado dunque la sua ontologica inconsistenza e anzi, ancor più radicalmente, una sorta di suo non essere originario. Quindi, quando io recentemente, insomma, leggevo queste cose, c'era Stefano Poggi, Stefano Poggi diceva, ma che è Heidegger? E naturalmente no, insomma, però che tipo di collegamento, quindi? Questo è il tipo di impostazione di fondo, no? Quindi l'idea che c'è alla base una perdita della garanzia ontologica che è appunto stata ben sottolineata da Giacomo quando ha parlato appunto della polemica antisostanzialistica di Jervis. A quel punto interviene De Martino, e su questo concludo, cioè il concetto di presenza e di crisi della presenza a questo punto diventa la chiave per lui del discorso, cioè lui dice a questo punto, siccome non c'è più questa garanzia ontologica, quindi l'essere umano non è più garantito da questa sostanza, che poi lui in qualche modo appunto vedeva come una delle tante incarnazioni dell'anima, insomma, allora lui ridefinisce il concetto di autocoscienza, l'idea di autocoscienza e di soggettività autocosciente nei termini demartiniani, cioè come un insieme di manovre difensive proprio per arginare la minaccia della crisi della presenza. Ecco, questo era un punto fondamentale. Infatti io mi ricordo che Jervis, quando appunto ne parlavamo, mi disse guarda, leggi Morte e pianto rituale di De Martino, perché lì in quel libro ci sono appunto delle idee importanti rispetto a questo. Cioè l'idea appunto è che l'autocoscienza stessa si definisce come un insieme di manovre difensive che pongono un argine alla minaccia che è portata da questo non essere originario, cioè di questa inconsistenza ontologica che sta alla base dell'essere umano. E in La Scoperta dell'Identità, e concludo, dice Jervis, il tutto si può riassumere così. La vita umana è condizionata dalla fondamentale esigenza di costruire e difendere un'immagine di sé dotata almeno di una solidità minimale, e cioè in pratica abbastanza solida da confermarci che esistiamo senza dissolverci. Ecco, in questo senso, secondo me, appunto, l'insegnamento di De Martino rivive appunto in tutta questa, viene ripensato appunto attraverso quello che era un pensatore freudiano, no? Nei termini appunto di tutta la tematica dei meccanismi di difesa. Grazie. Grazie Massimo. Prima, non so, di dare la parola a qualcuno che ha voglia di porre qualche domanda, soprattutto ai due curatori, ricordo quella frase che poteva avere apparentemente un timbro heideggeriano, in realtà ha una risonanza pascaliana, e qui faccio una cosa, non soltanto ricordo la prefazione di Johnny a un libro di cui adesso non ricordo il titolo, ma di due allievi che si erano occupati dei movimenti buddisti, neobuddisti, per Feltrinelli, che si concludeva con la seguente frase, che dopo una citazione di Pascal, Pascal secondo me l'autore a cui faceva riferimento implicitamente, dopo, ecco, che boccata d'ossigeno e poter leggere un pensiero di Pascal dopo aver letto le frasi assolutamente infondate di questi neobuddisti. È molto bella questa cosa, una battuta terribile. Io ricordo anche, alcuni anni fa, sono stati 2008, non tanti anni fa, 2008 proprio, sì, e io avevo letto i giornali, gliel'ho passati, eravamo in aereo per Torino e tiro fuori dalla tasca un'edizione piccola del Le Pensée di Pascal, e infatti dice, le stai leggendo? Sì, ma perché? Stai facendo un lavoro? No, dico, Johnny, per ossigenarmi, è il modo migliore di leggerli, ha detto lui. Quindi insomma mi pare, ho l'impressione che il tono sia proprio legato all'amore che lui aveva, molto problematico, per le tematiche pascaliane, che considerava, cioè era uno che amava leggere i classici, era uno che leggeva la letteratura, era uno informatissimo, era anche informatissimo appunto durante le riunioni anche sulle ultime cose che uscivano all'estero, hai detto bene tu, cioè lui aveva una informazione a 360 gradi e che naturalmente che faceva la differenza. Chi vuole qui c'è una grande psicologa che è la collega Grazia Artili, ma insomma ci sono anche varie persone. C'è qualcuno che ha voglia di dire qualcosa? Non lo sto precettando, ma soltanto qualcuno vuole porre qualche domanda? Io voglio dire una cosa. Certo. Ho l'assunto come una ipotesi per contrastare, no, soprattutto la tradizionale lettura. Ok, sul Massimo. Sì, dunque l'idea è legata a questo, cioè che il tipo di ontologia che viene sottoscritta, insomma, da Jervis è un'ontologia di funzioni psicologiche, cioè l'essere umano è costituito da una molteplicità di funzioni psicologiche, che è poi l'ontologia del cognitivismo. Cioè l'idea è che quindi l'unità della coscienza è apparente e che la realtà della macchina psichica è questa molteplicità di funzioni. Ora, quindi è questa... questo non essere di cui lui parla è lo scarto che si viene a creare rispetto a questa soggettività autocosciente che si automanifesta come unitaria, come solida, e dall'altra invece il fatto che appunto sia un'illusione a fronte dell'eterogeneità delle funzioni che costituiscono in realtà la macchina psichica. Cioè l'idea di inconscio, però l'inconscio delle scienze cognitive, non quello dinamico. Ok? Quindi rimane un dualismo comunque, no? Tra questo inconscio raggiungibile, inaccessibile, e il latino teorico, che noi abbiamo come, no? Inaccessibile dal punto di vista della, rispetto al quale noi non abbiamo un accesso introspettivo, ma accessibile in quanto teorizzato dalle scienze della mente. No, il punto è che cioè le scienze cognitive portano alla luce questa macchina psichica, la teorizzano queste funzioni. Okay? Non ne dispone, certo. Ma questo diciamo si trova già in Freud. Quello che ho detto è che lui riteneva che le scienze della mente ci fornissero gli strumenti per una critica della soggettività autocosciente, okay? Quindi della fenomenologia in prima persona. Quindi sono le scienze della mente che teorizzano questo inconscio, ci dicono quali sono queste funzioni e naturalmente il problema poi diventa questo scarto che lei indicava. Distinguerei, direi che la prospettiva di Jarvis era di naturalismo, che non è il positivismo sostanzialmente dice che la scienza non ci aiuta, è un'ipotesi, come diceva Poincaré o i positivisti logici, cioè è qualcosa che resta a livello fenomenico, non sappiamo come fa. Invece lui era realista, primo punto, quindi è un naturalismo realista quello di Jarvis. Forse si può recuperare una nota che poi Massimo mi ha fatto, appunto l'interpretazione di Massimo, che lega moltissimo il pensiero di Jarvis con quello di De Martino. L'idea di Martino, di De Martino era che la crisi della presenza altro non era che il tentativo da rifuggire dalla natura che è sempre incombe su di noi, ci risucchia, nel senso che tutto quello che ci è costruito sopra è fragile, certo. E appunto l'identità personale è qualcosa che può sempre sfuggire. Certo. Ecco, credo che questo sia il senso, non c'è il nulla, c'è la natura, dopodiché la cultura si erige sulla natura e per questo è fragile, è friabile, può sempre svanire, è sempre una conquista peritura, eccetera. Dopodiché i fondamenti ontologici sono naturalistici, non è il nichilismo, ecco, questo mi pare... No, per lui natura, secondo me, vabbè, forse poi... No, è interessante, sono le questioni fondamentali, no, c'è niente di... Però lui è un naturalista nel senso che lui pensa che la scienza ci descrive come è fatto il mondo. E poi abbiamo l'idea che viene dal mondo della cultura che c'è qualche altra cosa che è la soggettività umana. Lui dice qui il mito dell'interiorità, è chiaro che lui su questo... falsa, dopodiché... Direi che però rispetto a chi dice falsa, lui dice che queste sono, io se lo interpreto correttamente, illusioni indispensabili. Ripeto il fatto che la sua idea è che non possiamo rinunciare all'idea di responsabilità, ma neanche all'idea di coscienza, su quello non lo potremo mai fare. Certo, se cerchiamo, come facevano gli antichi filosofi, il fondamento oggettivo di tutto ciò è semplicemente una riduzione a come siamo fatti naturalmente. Chiaro, se si fa quell'operazione lì. Volevo dire solo una battuta su questo, cioè a proposito del discorso appunto sulla falsità, ma in realtà lui sosteneva che poi in realtà l'errore fosse produttivo, lui dedica una parte finale nei fondamenti di psicologia dinamica, che poi in questa costruzione della soggettività cosciente c'è anche la costruzione della cultura, come te hai detto. Quindi voglio dire, in realtà poi l'errore produce, è creativo, quindi non c'è soltanto, come dire, una definizione negativa di questa costruzione. Prego, Gianni. La riflessione era semplicemente questa, cioè lui non aveva nulla di nichilista, cioè non c'è il nulla, c'è la rocciosità del vero leopardiana, cioè la scienza ti fa vedere le cose come effettivamente stanno. In lui poi c'era l'idea dell'errore come fonte di conoscenza, l'errore quindi come fonte di conoscenza, appunto che baconiano, atteggiamento empiristico, la scienza che è un work in progress, che spesso deve revocare in questione una serie di premesse, di modelli. I modelli vanno sempre visualizzati con una certa skepsis, ciò che conta sono i risultati empiricamente rilevabili. E poi lui era fondamentalmente, riteneva, almeno quello che io ho letto e quello che ho sentito da lui, che noi non siamo liberi, che noi siamo determinati, ma al tempo stesso, accanto alla curiositas, lui aveva un senso intensissimo dei rapporti, cioè l'amicizia, l'amore, come l'amicizia emerge tra persone, la simpatia, come c'è l'amore, tutte queste cose qua. Io gli dicevo, forse con calcolo infinitesimale riusciremmo a ricostruire i passaggi causali, ma il calcolo infinitesimale è per definizione impossibile, no? Poi il problema leibniziano, se volete, no? Non si può fare. È possibile che tutto quello che accade tra due persone in amore o in amicizia è determinato in maniera, come dire, rigorosamente causale, ma non possiamo ricostruire, appunto, ci sono appunto i geni, c'è questo rispecchiamento, i neuroni specchio, tantissime altre cose, ma non possiamo, ecco, solo che lui alla fine diceva, insomma, quello che accade di rilevante nella vita sono le relazioni, sono quello che capiamo, quello che ci è dato di capire, di conoscere, e le relazioni. E queste due cose teniamocele strette, perché insomma in fondo lui aveva un'idea, per dirla con Aristotele, che agire in un certo modo è un imperativo, ma indipendentemente dal risultato. La virtù è premio a se stessa, questo era il suo modo di essere. Bisogna avere un habitus rigoroso, forse anche spinoziano. Comunque la virtù è premio a se stessa, noi ci dobbiamo comportare in questo modo, perché è l'unico modo in cui ci è dato di vivere e di andare avanti, in un modo che lui teneva poi essere dignitoso e via dicendo. Poi probabilmente c'era un qualcosa. Prego. Io il suo pensiero sulle religioni lo può trovare in Pensare dritto e pensare storto, dove c'è un capitolo intitolato Le religioni prese per la coda, e dove si confronta con anche una serie di posizioni che ultimamente sono emerse riguardo, insomma, al ruolo, la funzione sociale della religione, perché poi lui sostanzialmente era questo il problema che interessava, insomma, non è che gli interessava appunto quello che il contenuto, insomma, quali meccanismi psicologici sono implicati nelle credenze religiose, e soprattutto seguiva abbastanza, infatti una delle ultime discussioni che abbiamo avuto è stata su Dawkins e su Dennett e sul libro di Dennett, perché io gli dissi che a me proprio non erano piaciuti per niente, secondo me era tempo perso scrivere libri di questo genere, perché a mio parere, insomma, comunque le religioni sono un fatto molto naturale, molto, diciamo, che si spiega naturalisticamente, quindi naturalisticamente vuol dire biologicamente, comportamentalmente, non, diciamo, usando altre categorie, e ritenevo appunto che quindi questa battaglia in fondo fosse una battaglia più che altro di carattere pubblicistico, e lui, a lui questa cosa, insomma, non lo convinceva, perché invece a lui alcune cose, alcuni temi, diciamo, alcuni aspetti di questa battaglia invece lo interessavano di più. Però era molto curioso delle religioni da questo punto di vista, e poi indubbiamente c'era però il lato, secondo me, della sua formazione. Cioè io a un certo punto qui scrivo, insomma, che secondo me lui sarebbe stato d'accordo se io gli avessi detto che la sua coerenza metodologica, il suo rigore, erano un rigore di stampo protestante. però voglio dire che un rigore di stampo protestante ha a che fare con la cultura, la tradizione, l'importanza, il valore, insomma, secondo me, che ha avuto la tradizione protestante rispetto allo sviluppo umano in generale, insomma, lo sviluppo in termini di benessere economico, in termini di conquista di libertà, in termini di eguaglianza. Poi, questo ha a che fare anche con dei meccanismi psicologici, secondo me, non ha a che fare con il fatto che il protestantesimo poi sia qualche cosa che, cioè, ha capito o ha trovato, diciamo, la quadratura del cerchio. E penso, insomma, che queste cose, appunto, questo fosse il suo interesse. Però, insomma, se lei va a leggersi questo capitolo, Le religioni prese per la coda, il titolo è estremamente, insomma, indicativo. Bene, allora io ringrazio tutti quanti i presenti, non soltanto gli amici Alberto Oliverio, Mario De Caro e naturalmente i curatori di questo libro. E io penso che abbiamo fatto non un omaggio, ma abbiamo parlato di Johnny come se Johnny fosse ad ascoltarci, esattamente alla stessa maniera. Io da lui ho appreso il senso della lealtà e dell'amicizia nel confronto più aperto, spregiudicato sulla cosa stessa, senza animosità, senza personalismi. Da lui ho appreso la priorità dell'imperativo eretico, il diritto al dissenso contro il common sense, contro il senso comune, perché il senso comune può anche essere qualcosa di terribilmente barbarico. Vi ringrazio.